Anna, una donna che non è stata distrutta da un cuore infranto. Una persona può morire di crepacuore. I medici britannici, studiando il caso di un folto gruppo di vedovi, scopersero che diversi di loro erano morti entro i primi 6 mesi successivi al decesso delle loro mogli, di essi il 50% per malattie di cuore. La vita della profetessa Anna avrebbe dovuto essere senza speranza. Perfino oggi, in certi paesi, una vedova viene praticamente buttata nella sepoltura del marito quando lui muore. Ai tempi di Anna, l'unica cosa che una donna senza figli potesse fare una volta rimasta vedova era tornare a casa dei genitori per aspettare un secondo marito, oppure morire. Il felice matrimonio di Anna durò solo 7 anni. I commentatori della Bibbia dicono che è rimasta vedova per più di 60 anni. Era una professa della tribù di Asher, della Galilea. Questa è la tribù insignificante della quale è stato detto: nessun profeta può venire dalla Galilea. I profeti di solito erano uomini, le profetesse erano rare, ma la Bibbia ce ne nomina alcune. Miriam, Deborah, Ulda e Noadia nell'Antico Patto, e le quattro figlie di Filippo, l'Evangelista, vissute nel periodo nella nascente Chiesa. Vivendo al tempo della nascita di Gesù, Anna si colloca tra l'Antico e il Nuovo Patto. Era un onore essere una profetessa, una donna che, come un profeta maschio, riportava la parola di Dio al popolo. Era un privilegio che pochissimi potevano avere. Anna apparteneva a questo gruppo selezionato. Molte vedove assumono spesso questo atteggiamento: quando mio marito è morto, la mia vita si è fermata. Oppure, la mia vita non ha più senso. Sono reazioni che dimostrano, sì, un vero amore, ma anche la mancanza di altri beni e felicità alternative su questa terra. La reazione di Anna è stata diversa. Non si è rifugiata nell'isolamento e nell'autocommiserazione dopo questo grande colpo. Non è diventata un peso per i suoi parenti, non è diventata una donna solitaria la cui vita nulla aveva da offrire, e neppure è diventata una persona che tutti commiseravano e che nessuno sapeva veramente aiutare. Non si è rifugiata nel passato. Qualcuno ha detto che una persona che vive di progetti resta giovane, ma chi vive di ricordi invecchia. Questo è uno dei grandi pericoli che devono affrontare le vedove, e solo coloro che, come Anna, hanno perduto il compagno della loro esistenza, sanno quanto sia grave questa minaccia per la loro vita spirituale. Quando l'unità di una coppia sposata è infranta, quella che rimane è una persona singola, strappata in due. Anche dopo un matrimonio relativamente breve, colui o colei che rimane non ha più la stessa personalità di prima, ma rimane la metà di due persone, abituata come era di vivere in due, a ragionare in due, a scegliere in due. Anna è stata forse confortata dal pensiero che Dio non prende soltanto per l'amore di prendere. Si aspettava che egli avrebbe dato se stesso in cambio di chi egli aveva tolto? Molto probabilmente sì. Una persona deve avere il coraggio e la capacità di vedere molto in là, per abbracciare il suo isolamento. Gesù disse più tardi ai suoi discepoli che nessuno che abbia messo la mano all'aratro e guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Anna si è rifugiata presso Dio, ha dedicato la vita al servizio nel Tempio. Ha pregato e digiunato, era disposta a prestare più attenzione a Dio che a se stessa, e a dare alla sua opera la priorità assoluta. Quando una vedova osa lasciare stare il suo passato, quando la sua felicità non dipende dai ricordi, quando osa affrontare sia il presente che il futuro insieme a Dio, avrà il cuore inondato da una pace sovrana. Essa non affronterà più la vita come qualcuno privato di qualcosa, ma come uno che consola, conforta. Può confortare gli altri nei loro problemi e coloro che piangono perché anche lei è stata confortata da Dio. Anna era occupata nell'opera di Dio, non soltanto durante il giorno, ma anche durante la notte, eppure, nonostante tutte le sue attività, non perdeva di vista le persone. Un vero cammino con Dio non è soltanto introspettivo, ma anche rivolto agli altri, vuole rendere felici gli altri. Soren Kierkegaard una volta disse: La porta della felicità si apre all'esterno verso gli altri. Il mondo era buio, malinconico e senza speranza ai giorni di Anna. I problemi erano troppo grandi perché la gente li potesse sopportare. Molti perciò stavano arrancando, aspettando coscientemente o incoscientemente una redenzione che poteva venire soltanto da Dio, la venuta del Messia. Improvvisamente giunse quel gran giorno. Gesù nacque. Quando Giuseppe e Maria portarono il loro primogenito al Tempio per presentarlo a Dio, come era richiesto dalla legge, non vi trovarono Anna, una donna che non è stata distrutta dal cuore infranto, soltanto il pio Simone, l'uomo al quale era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia, ma anche Anna. Dio, che si era curato di lei tanto fedelmente durante tutti quegli anni, fece in modo di non farle perdere quel momento sacro. La donna, che normalmente non avrebbe avuto possibilità di sostentamento nella vita per la sua condizione di vedova e per la sua età, in quel momento divenne una delle donne più privilegiate del mondo. Insieme a Simeone le fu permesso di vedere il bambino Gesù e di adorarlo. Questo è stato il coronamento di tutta la sua vita, la risposta alle sue preghiere di molti anni e il più grande momento di tutte le età, il momento che il mondo aveva ansiosamente aspettato. Il Messia era venuto. Era naturale per Anna fare due cose. Prima si unì a Simeone nel lodare e adorare Dio perché era finalmente giunto il tanto aspettato, Redentore del suo popolo, del mondo e dei suoi propri peccati. In secondo luogo, decise che non era possibile tenere per sé questa notizia eccitante. Qualcuno ha detto: testimoniare significa guardare bene il Signore Gesù Cristo e poi dire agli altri quello che si è visto. Questo è stato quanto ha fatto Anna. Ed è una prova anche di quanto bene conoscesse la gente. Conosceva tutti coloro che a Gerusalemme aspettavano con gioia il Salvatore, perciò andò a riferire a loro quanto aveva visto. Questa proclamatrice di Gesù Cristo non era un giovane energico dal parlare eloquente, ma una donna anziana che aveva sperimentato ciò che il salmista aveva scritto del Signore e gli sana. Coloro che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. La testimonianza di Anna ci insegna tante cose. Per prima cosa, che non è possibile tenere per sé una bella notizia. L'Evangelo è tale e chi vi ha creduto ha un fuoco divino nell'anima che gli impedisce di tacere. Deve parlare, deve testimoniare. Sente che se tace commette un furto nei confronti del prossimo, perché non gli dona ciò che gli spetta. Dato che Gesù è morto per tutti, affinché tutti abbiano vita eterna, tutti hanno il diritto di saperlo. Non condividendolo, si rimane colpevoli. Inoltre, Anna ha avuto l'ardire di testimoniare del bambino. Non è facile annunziare una verità. Nel momento in cui Lot andò a rivelare ai mariti delle sue figlie che la città di Sodoma sarebbe stata distrutta, i generi pensarono che egli volesse scherzare. Quando Paolo parlò di resurrezione dai morti, alcuni ateniesi si beffarono di lui. Ma non solo. Quando i primi cristiani iniziarono a testimoniare di Cristo come il loro padrone e Dio, furono perseguitati e assassinati. Questi pericoli erano presenti anche al tempo della profetessa Anna, e lei lo sapeva molto bene. I profeti che parlavano da parte di Dio prima di lei, il più delle volte erano stati inesorabilmente uccisi perché non parlassero più di certe cose. Come avrebbero reagito coloro ai quali Anna avrebbe parlato? La Bibbia non ce lo rende noto, anche perché l'evangelista e storico Luca termina il racconto su Anna, Preferendo semplicemente che lei parlava del bambino a tutti coloro in attesa della redenzione in Gerusalemme. Perciò Anna, prima di tutto, si era rivolta a dei credenti la fede dei quali era attiva e viva. Cosa più che giusta perché la bella notizia del Vangelo di Cristo non è solo per i perduti, ma anche per i salvati, per coloro che hanno posto una reale fede in Cristo. A molti sfugge il fatto che il messaggio di Cristo presenta grandissime e meravigliose promesse per questa vita, e non solo per quella futura. Vi sono moltissime promesse per le vedove in questa vita. Esse dovevano essere aiutate in modo particolare con le primizie della terra. Quando si mieteva il grano non si doveva tornare indietro per raccogliere ciò che si era dimenticato, e così era per gli ulivi e l'uva. Chi danneggiava il diritto della vedova veniva maledetto direttamente da Dio. Queste regole ci dicono quanto sia prezioso agli occhi di Dio lo stato sociale di una vedova, e se anche non fosse tenuta in considerazione dagli uomini, Dio stesso ha un occhio particolare verso di lei. La vedovanza è una situazione molto infelice e ben nota a Dio, il quale proprio per questo motivo presenta se stesso come il marito delle vedove, cioè colui che provvede ciò che ha bisogno. E quando Dio funge da marito, è certo che non muore mai, e come per Anna la profetessa rimane fedele. Ecco una ragione in più per non essere distrutti dal dolore di una vedovanza. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti. Anna, una donna che non è stata distrutta da alcun cuore infranto. Anna, una donna che non è stata distrutta da alcun cuore infranto,